che non sai, oppure che fai finta perché non sei convinta. Ma siamo qui da un'ora, io e te a parlare come non abbiamo fatto ancora. Caso strano, non mi sento strano, vuoi vedere che ti amo? Meglio rischiare, sai, che non concedersi mai. Ma se ti va, puoi stare qua. Abbracciati così, a far l'amore fino a lunedì. La, la, la, la, fino a lunedì. La, la, la, la, la. Ma perché devi avere paura di un bicchiere in più e di lasciarti andare? Sei così convinta che io faccio finta o non vuoi darle vinta? Ma dai, che sono umana anch'io, non può essere che rischiare, sai, che non concedersi mai.